Italia in controluce. È il 30 di aprile del pomeriggio di Radio 24, va in onda la seconda puntata di Italia in controluce, il programma di Daniele Biacchesi e della redazione di Radio 24 dedicato all'Italia, racconto del nostro paese attraverso i reportage e le inchieste. Dedicata alle grandi città al voto, la prima puntata dell'inchiesta d'Italia in controluce Radio 24 sulle amministrative, quelle che si svolgeranno il 6 e il 7 di maggio. Il reportage di Maria Luisa Pezzali. Le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio sono un'importante cartina di tornasole per gli schemi e le alleanze politiche a livello nazionale e locale. La rottura tra PDL e Lega, le fratture nel terzo polo, l'emergere dei candidati non designati dal PD nel centro-sinistra, il moltiplicarsi delle liste civiche e la cavalcata dei grillini. La consultazione è lo specchio degli equilibri instabili tra i partiti e del rischio del loro declino. Una tappa importante per comprendere la tenuta della Lega travolta dagli scandali sarà Verona, dove i maroniani scommettono sulla rielezione di Flavio Tosi. I suoi principali sfidanti sono per il centrodestra Luigi Castelletti, avvocato, ex consigliere di Unicredit, ex presidente di Fiera Verona. Per il centrosinistra Michele Bertucco, ex presidente di Legambiente Veneto. Castelletti si definisce il Monti di Verona. A sostenerlo, oltre al PDL, ci sono anche UDC e FLI, caso quasi unico di Finiani e Berlusconiani a braccetto. Il tema di Verona è, come tutto il paese, la crisi economica, quindi dobbiamo produrre posti di lavoro. Le viene attribuita qualche difficoltà perché dicono che Tosi pescherà ancora nell'elettorato PDL. Mi sono candidato a capo di una lista civica, questo sia chiaro, per dare un'alternativa all'elettorato che non si riconosce più né nell'elettorato di Tosi né nell'elettorato di sinistra, ma soprattutto per dare una possibilità a chi aveva già deciso di non andare a votare. Punta al ballottaggio anche il candidato unitario del centrosinistra Bertucco. Io voglio ritornare ad amministrare come va fatto. L'amministrazione è un gruppo di persone che lavorano assieme, non un sindaco che decide da sola, ma sono abbastanza tranquillo che arriveremo al ballottaggio. Secondo lei lo scandalo che sta travolgendo la Lega potrebbe indebolire la ricandidatura molto forte di Tosi? Allora, la Lega Verona è stata gestita come la Lega a livello nazionale, né più né meno, c'è molta poca trasparenza. E a Verona corre per la poltrona di primo cittadino anche Ibrahima Berri, operaio, originario della Repubblica di Guinea, primo immigrato candidato sindaco in Italia per il partito di Alternativa Comunista. Il nostro slogan: noi siamo dalla parte di chi non ha voce. Prima di tutto diritto alla casa per tutte le famiglie sfrattate, edilizia pubblica per i lavoratori, spazi sociali gratuiti per i giovani e gli anziani che ne hanno bisogno, reddito sociale per i disoccupati e i precari. Diciamo a tutti i lavoratori di votare per me, siano nativi che immigrati. Di peso, oltre a quella di Verona, anche la sfida di Palermo, dove a contendersi la fascia di primo cittadino fra gli 11 candidati ci sono il vincitore delle contestate primarie del centro-sinistra Fabrizio Ferrandelli, Massimo Costa, appoggiato da PDL, UDC e Grande Sud, inizialmente candidato dell'MPA di Lombardo e Terzo Polo, e l'ex sindaco Leo Luca Orlando, deputato dell'Italia dei Valori, sceso in campo contro quelle che ha definito primarie truccate. Qualche sorpresa potrebbe arrivare da Alessandro Aricò, candidato sindaco di MPA, API e FLI, alfiere dell'asse Lombardo-Fini. Costa, avvocato, ex presidente del CONI Sicilia, promette discontinuità con la giunta cammarata. Abbiamo parlato di un governo della città che sarà fatto solo di persone competenti, nel quale non saranno presenti nessuno degli uomini che ha governato negli ultimi 20 anni questa città, perché il malessere di questa città ha radici profonde che sono risalenti anche nel tempo. Nel centrosinistra, spaccato dalle polemiche per le primarie, i due candidati, Ferrandelli e Orlando, non risparmiano le frecciatine. Il primo punto, ci siamo dati il punto della riorganizzazione delle aziende controllate del Comune di Palermo, tagliando gli sprechi, sostanzialmente azzerando tutti i consigli di amministrazione, nominando gli amministratori unici e soprattutto con uno scambio di servizi interni fra le aziende e mobilità interna del personale. Dopo tutte le polemiche, lei si sente di rappresentare tutto il PD? Sì, anche perché c'è stato un collegio dei garanti che ha sancito chiaramente la vittoria e la regolarità delle operazioni. E a qualcuno che già aveva deciso prima di candidarsi serviva una scusa. Questa candidatura indebolisce il centrosinistra che avrebbe potuto vincere sicuramente al primo turno. Il mio elettorato di riferimento è l'elettorato dei palermitani che vogliono finalmente un'amministrazione che risolva i problemi della città e che non sia invece un luogo di scontro per interessi e affari che non riguardano Palermo. Cosa replica a chi le attribuisce già un'intesa che prevede un sostegno a Costa nel caso in cui arrivi lui ballottaggio con Ferrandelli? La mia storia è una storia di anti-berlusconismo talmente forte che rende del tutto inaffidabile queste affermazioni. Mi posso permettere a chi dice questo di dire che forse vinco al primo turno, non ho bisogno di apparentarmi con nessuno? Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Anche a Genova le primarie del centrosinistra hanno visto primeggiare un candidato a sorpresa, il professor Marco Doria, proposto da Sinistra e Libertà, che ha scalzato a sorpresa l'uscente Marta Vincenzi. Doria se la vedrà con il candidato di centrodestra Pierluigi Vinai. Da tenere sott'occhio anche Enrico Musso, altro professore di economia appoggiato dal Terzo Polo, e Edoardo Rixi, Lega Nord. Per molti la candidatura di Doria rispecchia quella di Giuliano Pisapia. Pisapia ha dimostrato di essere capace di catalizzare un bisogno evidente di rinnovamento, un bisogno di un nuovo modo di fare politica inteso come servizio, un modo di porgersi educato. Il fatto di poter essere quindi accostato a lui non può che farmi piacere. Sono l'unico candidato presente alle amministrative genovesi che non si è autocandidato e che non è stato scelto da un partito, ma che è stato scelto con una procedura democratica come quella delle primarie, che ha coinvolto 25.000 cittadini genovesi, quindi non pochi. E mi sento davvero in grado di rappresentare tutto lo schieramento di centrosinistra. A Genova il PDL punta a portare Vinai al ballottaggio per poi aggregare intorno a lui i voti dei moderati. Io mi pongo l'obiettivo di arrivare al primo turno al ballottaggio perché di fatto si stanno svolgendo le elezioni primarie dei moderati, diciamo così. Quindi certamente Doria arriverà al ballottaggio e si tratterà di vedere chi andrà a sfidare Doria. Ragionevolmente credo che ci andrò io, insomma. È chiaro che mi rivolgerò anche a quelli che oggi sono i miei competitor nell'area moderata per chiedergli di sostenermi. Prime amministrative post terremoto all'Aquila, dove viene dato per favorito, nonostante le polemiche sui ritardi della ricostruzione, il sindaco uscente del PD Massimo Cialente, candidato del centrosinistra ma senza l'Italia dei Valori, che mette in campo il consigliere comunale Angelo Mancini. Diviso il centrodestra, il candidato ufficiale imposto da Angelino Alfano è l'urbanista Pierluigi Properzi. Il ribelle territoriale è il leader dell'MPA regionale Giorgio De Matteis, sostenuto dai fuoriusciti PDL e da un vasto mondo di arrabbiati, Udeur, UDC, Destra, Casa Pound e persino i Verdi. Ma il malloppo di consenso più variabile sarà in mano alle civiche, dove spicca Ettore Di Cesare di Appello per l'Aquila. Massimo Cialente punta sulla continuità. Questa credo sia in Italia la poltrona in assoluto più scomoda e più difficile da gestire, perché la città è stata abbandonata a se stessa, sta tutto fermo, insomma è una situazione particolarmente difficile. Il motivo per cui mi ricandido è che ritengo di essere l'unico in questo momento che ha un controllo e una conoscenza di tutti i problemi che si devono affrontare, che la complessità della macchina che si è messa su. Si tratta di prendere in mano la ricostruzione, ci vuole qualcuno che sia preparato, ci sia stato. Ecco. Di Cesare è uno dei fondatori di Open Polis, il sistema di controllo sull'operato dei politici gestito dal basso. Quello che crediamo è che nessun sindaco riuscirà a ricostruire questa città, me compreso, ma dovrà essere il sindaco che renda partecipe tutte le migliori energie di questa città per vincere la sfida che il destino ci ha messo davanti. Quello che diciamo noi è che invece serve discontinuità, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti e non potrà che andare peggio. Era Italia in controluce, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24. Questa, come tutte le altre puntate di questo programma, sono scaricabili in podcast entrando dentro nel nostro sito radio24.it. Poi ricordatevi, per chi è iscritto a Facebook, che c'è la pagina e il gruppo di Italia in controluce. Stanno andando molto bene, anche soprattutto molte idee da parte dei nostri ascoltatori, dunque anche Twitter e il nostro blog radio24.it.